Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel nostro programma ci piace raccontare spesso le storie di personaggi magari non famosissimi, non di prima fascia, non conosciuti ai più, ma che hanno vissuto la storia a fianco di gente famosa e che hanno cambiato assieme a loro la storia. Ci piace guardare gli eventi da un angolo diverso da quello solito. E chi ci conosce sa che abbiamo raccontato, non so, la moglie di un presidente piuttosto che il presidente stesso, oppure l'assassino di John Lennon, la segretaria di Hitler, il manager di Elvis Presley. E anche quella di oggi è una storia così. Racconteremo la vita e le vicende di un personaggio che è stato sicuramente un grandissimo chitarrista, poi diventato bassista, innovativo dal punto di vista tecnico, ma ha vissuto una straordinaria esperienza a fianco di una leggenda, a fianco di Jimi Hendrix, perché oggi raccontiamo la storia di Noel Redding, bassista dal 66 al 69 della Jimi Hendrix Experience, la band, il trio creato da Jimi Hendrix, che ha rappresentato uno dei gruppi più influenti e rappresentativi della storia della musica moderna, nonostante sia esistita per meno di 4 anni. Tra l'altro, la vicenda che lega Noel Redding a Jimi Hendrix non si conclude con la sua fuoriuscita dal gruppo nel 69, prosegue in maniera inaspettata, anche amara per certi versi, soprattutto dopo la morte di Hendrix avvenuta, come sapete, nel 70. Arriva fino ai quasi ai nostri giorni questa storia, fino alla morte di Redding avvenuta nel 2003, e poi scopriremo come. Intanto vediamo di conoscere meglio Noel Redding, considerato sicuramente un grande chitarrista, ma lui nella band di Jimi Hendrix suonava il basso e forse proprio per questo è stato un bassista dalle innovazioni sorprendenti. Noel Redding nasce la notte di Natale e da qui il suo nome di battesimo, Noel, 25 dicembre del 45, primo Natale di pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui nasce a Folkestone, nella contea del Kent in Inghilterra, la parte che si affaccia sullo stretto della Manica a fianco delle bianche scogliere di Dover, e questo luogo lo influenza molto perché lui sarà sempre un tipo di poche parole, schivo, molto vicino alla natura, amante del mare, con la passione della musica che nasce con lui. Lui comincia a suonare il violino quando è molto piccolo, alle elementari, poi passa al mandolino e a 14 anni scopre il suo strumento, la chitarra. Formai un gruppo con dei miei compagni di scuola. Ci chiamavamo The Strangers. Suonavamo nei club giovanili e il nostro repertorio erano le canzoni di Eddie Cochran. Una volta facemmo una performance dentro la nostra scuola. E alla fine il preside ci chiamò e ci disse: «Ok ragazzi, è stato bello, ma ora dimenticatevi tutto, pensate agli esami». Pressa poco quello che disse il mio preside, Barbarito, il preside del Berchet, quando io suonavo a scuola. Ma quando la passione è così grande non ci sono presidi che tengano. Lui continua a suonare, a 17 anni diventa chitarrista professionista, inizia a lavorare nei club in Inghilterra, in Scozia, poi va in Germania, entra a far parte di diverse band che si chiamano The Brunettes, poi The Lovely One e poi The Loving Kind, con i quali realizza anche alcuni singoli. Stay away too long. poi arriviamo al 66, l'anno della svolta, perché in quel periodo uno dei più grandi successi internazionali è una hit che dura da almeno un paio d'anni nelle classifiche mondiali. Stiamo parlando di anni in cui la musica non era usa e getta come oggi. È una canzone folk statunitense, non si conosce neanche il compositore. Si chiama The House of the Rising Sun e viene riarrangiata e interpretata da un grande cantante che si chiama Eric Burdon e da una band che in quel momento aveva grandissimo successo, cioè The Animals. Una canzone fantastica, famosissima, senza tempo, nel 99 addirittura ha vinto un Grammy Hall of Fame Award. Bene, nel 66 gli Animals sono una band di vertice, ma hanno problemi interni e stanno per sciogliersi. Così il cantante Eric Burdon decide di creare una nuova band che prudentemente chiama The New Animals. Sta cercando un chitarrista, è un'occasione unica per Noel Redding e lui non se la fa scappare, si propone per un'audizione, non sa che sta per capitargli qualcosa di assolutamente inaspettato e straordinario. Il falco e il gabbiano. Settembre 1966, Noel Redding, che ha appena 22 anni, si presenta all'audizione di Eric Burdon, cantante del mitico gruppo The Animals appena sciolto. Burdon sta cercando un chitarrista per una nuova band. L'audizione si svolge a Londra, a Gerrard Street, negli uffici di uno dei più influenti personaggi del mondo musicale internazionale. Si chiama Chas Chandler ed è l'ex bassista degli Animals che si è dato alla carriera di produttore. Ascoltiamo il racconto proprio di Noel Redding. Nel 1966 ero professionista da 3 anni. Era settembre e andai ad un'audizione. Eric Burdon dei New Animals cercava un chitarrista. Dopo la mia prova aspettai. Di solito ti dicono sediti lì, poi ti chiamano. Invece arrivò Chas Chandler, che mi chiese se sapevo suonare il basso. Io gli risposi di no, ma lui mi pregò di suonarlo lo stesso. Mi prestò addirittura il suo basso. Dovevo suonare per questo americano. C'era anche un batterista. Suonai 3 pezzi senza il cantante e l'americano mi invitò al pub lì sotto. Parlammo di musica mentre bevevamo e lui mi disse: vuoi far parte del mio gruppo? È andata così. Allora, c'era il batterista, poi non c'era il cantante, perché in realtà il chitarrista cantava. Questo americano, lo avrete capito, è Jimi Hendrix. Perché Jimi Hendrix si trova a Londra? Torniamo indietro di qualche mese, siamo a New York, Chas Chandler incontra una sua cara amica Linda Kate, fidanzata di Kate Richard, e questa Linda racconta a Chas Chandler di avere conosciuto un chitarrista straordinario, il più bravo di tutti, glielo vuole far sentire. Chandler va al Café Wa, sente Jimi Hendrix, capisce subito di avere fatto la grande scoperta della sua vita e vuole convincerlo a partire per Londra. Gli dice che vuole diventare il suo agente, che gli finanzierà il primo disco, gli fa un sacco di promesse, ma non sembra avere grande effetto. Poi ha un'idea brillante. Jimi Hendrix è un chitarrista e sicuramente per lui Clapton è un mito, quindi Chas, che è un furbacchione che conosce bene Eric Clapton, promette a Jimi Hendrix che glielo presenterà e che magari organizzerà anche qualcosa tra i due. Insomma, Chandler fa breccia nel cuore, nella musicalità e anche nella vanità di Jimi Hendrix, e nel settembre del 66 finalmente questo sbarca a Londra. È l'inizio di un'avventura straordinaria destinata a cambiare per sempre il mondo della musica. Clapton ha sciolto gli Yardbirds e ha dato vita a un trio con Ginger Baker e Jack Bruce. Il trio si chiama Cream, è una formula nuova, si sta diffondendo proprio in quel momento. Così Chandler propone a Hendrix una cosa del genere, un trio con Noel Redding, che è diventato virtualmente un bassista, e Mitch Mitchell alla batteria. È un batterista autodidatta di 19 anni. Poi verrà considerato uno dei più grandi batteristi della storia. Insomma, si forma questo trio e il business manager Mike Jeffrey ha una magica intuizione. suggerisce il nome The Jimi Hendrix Experience e Chas Chandler, come aveva promesso, presenta Hendrix a Eric Clapton. I due si esibiscono in una storica jam session al Central London Polytechnic il 1 ottobre del 66. Chandler finanzia il primo singolo dell'Experience che esce in Europa il 16 dicembre. Si tratta di un brano blues popolare, uno standard di cui il trio realizza una cover straordinaria. E la canzone si chiama Hey Joe. Il brano ha un grande successo e la Jimi Hendrix Experience comincia a essere conosciuta in Europa. Il gruppo è al lavoro al primo album, Are You Experienced? Che verrà considerato uno dei migliori album di debutto della storia musicale, universalmente riconosciuto come una pietra miliare del rock. Eppure, ascoltate come nasce, lo racconta proprio Chas Chandler. Penso che il primo album sia costato non più di 1500 sterline. Lo fecero in 10 giorni. Gli arrangiamenti delle canzoni erano studiati alla perfezione e anche la scaletta delle tracce era già stabilita. E quando Noel e Mitch le sentivano, era già tutto deciso. Ad esempio, mi ricordo che quando fu registrata The Wind Cries Mary, erano rimasti solo 20 minuti di tempo allo studio dell'Ain Lea di Londra. Hendrix aveva scritto la canzone la sera prima. Io gli dissi, facciamola solo sentire a Mitch e Noel. Andammo in studio. Ripeto, avevamo solo 20 minuti. Mitch e Noel suonarono le loro parti. Poi Jimmy disse, ho un'idea per la chitarra. Riavvolse la registrazione delle loro parti e ci suonò sopra. Poi disse, ho un'altra idea. Ne suonò 5 tracce diverse. Are You Experienced esce in Inghilterra il 12 maggio del 67 e schizza subito al secondo posto in classifica dietro a Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Questo è per dire il successo che ha subito. La band si chiama Jimi Hendrix Experience, ma i componenti sono 3 e sono tutti fondamentali. Redding ricorderà molti anni dopo che Hendrix riconosceva sempre questo fatto. Capitava che facessimo dei concerti dove dicevano Jimi Hendrix e magari mettevano Experience, ma non i nostri nomi. Ma Hendrix ha sempre detto che eravamo una band con 3 componenti. Lui era il frontman, ma non avrebbe mai potuto fare le stesse cose senza Mitch e me. A questo punto Jimi Hendrix e la band sono pronti per conquistare gli Stati Uniti, la patria di Hendrix, quindi un percorso strano, arritroso, prima l'Europa e poi gli States. Ed è qui che si vede la bravura di Chas Chandler, che su intercessione addirittura di Paul McCartney riesce a portare il gruppo, che allora era sconosciuto, a uno degli eventi epocali della musica pop, il Festival Internazionale di Monterey, l'inizio vero del movimento hippie, il precursore di Woodstock che arriverà 2 anni dopo. A Monterey, il 18 giugno del 67, è la prima grande apparizione americana della Jimi Hendrix Experience, un evento storico che segna la definitiva consacrazione della band e che rappresenta uno dei momenti più esaltanti e folli della storia della musica contemporanea. Il falco e il gabbiano. Protagonista della puntata di oggi è Noel Redding, grandissimo chitarrista, ma soprattutto il bassista della Jimi Hendrix Experience. Uno che ha toccato con mano la storia e la leggenda. Redding ha partecipato in maniera attiva alla realizzazione dei primi 3 album in studio della band, 3 pietre miliari della musica mondiale, e ha firmato anche alcune canzoni come autore. E nel nostro racconto siamo arrivati a quella che può essere considerata una delle esibizioni chiave nella storia di Jimi Hendrix e di tutto il rock, uno dei momenti cruciali di tutta la musica moderna. 18 giugno 67 a Monterey in California, un'arena naturale che per anni aveva ospitato un festival jazz, e adesso nasce il Monterey Pop Festival. È un'idea di alcuni discografici e di alcuni cantanti, tra i quali Paul Simon. Il 16 e il 17 giugno si svolgono le prime due serate. Almeno 200.000 persone hanno già suonato gli Animals, Simon e Garfunkel, Janis Joplin, Otis Redding, The Who. Poi arriveranno i Mamas and Papas. Adesso è il momento più atteso. 18 giugno arriva The Jimi Hendrix Experience, la band che sta spopolando in Europa e che è al suo debutto americano. Il gruppo canta i suoi maggiori successi e conclude con Wild Thing, un pezzo straordinario del cantautore statunitense Chip Taylor. The Jimi Hendrix Experience con questo brano sta per regalare al mondo un'esibizione storica. Wow! Durante il brano, come molti di voi sapranno, lui, Hendrix, suona la sua Stratocaster in tutti i modi, coi denti al contrario, sulla schiena, mima l'atto sessuale, manda in delirio il pubblico e poi al termine dell'esibizione, ricordiamoci che siamo nel 67, lui bacia la chitarra e le dà fuoco mentre sta ancora suonando. In una sorta di rito sacrificale, i suoni che escono dallo strumento, che ovviamente è totalmente in feedback, in risonanza, sono molto suggestivi. Lui afferra per il manico la Fender, che è in fiamme, la distrugge e dopodiché la getta al pubblico. Verrà peraltro recuperata recentemente, i pezzi rimanenti di quella chitarra sono stati venduti a 300.000 euro. Uno dei manager di Hendrix, James Wright, ha raccontato anni dopo che il cantante aveva deciso di dar fuoco alla sua chitarra solo per superare Pete Townshend, chitarrista degli U, che poco prima aveva distrutto il suo strumento sul palco. Sapete che gli U distruggevano spesso gli strumenti alla fine dell'esibizione, ne abbiamo già parlato quando abbiamo raccontato Kate Moon. Insomma, Jimi Hendrix voleva fare più scena di Pete Townshend. E Noel Redding è sempre lì e vive come membro della band, ma sicuramente sia per lui che per Mitch Mitchell la figura ingombrante di Jimi Hendrix è qualcosa che in qualche modo li mette in secondo piano. Apparentemente però questo sembra non essere un problema e lo conferma proprio Noel Redding. Le uniche discussioni che avevo con Hendrix riguardavano le donne. Lui era molto bravo. Dovunque andassimo diceva sottovoce alle donne: «Dai, vieni nella mia camera». E loro andavano. Ma qualche volta capitava che qualcuna dicesse: «Veramente mi interessa di più quel tuo bassista tanto magro». E magari io andavo con quella ragazza. A lui non andava giù. Più tardi mi telefonava in camera e mi diceva: «È ancora lì la ragazza?». E io: «No, no, no, se n'è andata». E invece lei era lì con me. E beh, i frontman delle band hanno queste psicosi. Comunque, The Jimi Hendrix Experience esce dal Festival di Monterey trasformata in un mito. È l'inizio di un'ascesa senza limiti. L'album successivo, X is Bold as Love, consolida la fama di innovatore del rock di Jimi Hendrix. In questo secondo album della band, un album che tutti definiscono straordinario, Noel Redding esordisce come autore, infatti è sua la traccia numero 10, She's So Fine. E anche nell'album successivo, il mitico Electric Ladyland, capolavoro della band, è presente una canzone scritta da Redding, Little Miss Strange, una delle poche canzoni che non siano firmate da Hendrix, a parte la famosissima All Along the Watchtower di Bob Dylan. Ma nonostante il grandissimo successo, Hendrix non è soddisfatto. Lui è uno che ricerca, è uno che vuole cambiare sonorità, vuole provare nuove figure all'interno del gruppo. E così nel 69 Noel Redding abbandona l'Experience, torna in Inghilterra dove lo attende la sua band, The Fat Mattress, e poi c'è un altro trio, i Road, poi va in Irlanda e dà vita alla Noel Redding Band. Insomma, sono anni particolari in cui ovviamente nulla è paragonabile a quello che aveva appena vissuto con Jimi Hendrix. E poi ci sono delle pendenze dolorose, perché quando nel 70 Jimi Hendrix muore a 27 anni, per lui inizia una battaglia legale, per Noel Redding, una battaglia che durerà per oltre 30 anni per vedersi riconosciuti i diritti discografici dell'immenso lascito di Hendrix gestito dalla famiglia e dai suoi manager. Nel 1974 mi offrirono un accordo economico. $100,000, che sembravano tantissimi soldi allora. Al cambio erano 30.000 sterline. 30.000. È tutto quello che ho avuto dall'experience. Cioè niente. Ma spero che le cose cambino. Questa dichiarazione di Noel Redding risale agli anni 90. Purtroppo le cose non sono mai cambiate, la sua battaglia lui l'ha condotta fino alla fine e poi si è aggiunta una battaglia contro la cirrosi epatica persa nel 2003 e Noel Redding muore a soli 57 anni. E per parlare di musica abbiamo bisogno di un esperto, ma oltretutto, siccome stiamo parlando anche di cose che riguardano Jimi Hendrix, il ruolo è alla terza potenza perché si parla con Red Ronnie. Ciao Red! Ciao Enrico, come va? Bene, benissimo. Allora, io ho raccontato la storia di Noel Redding e quindi, insomma, di uno di quelli che ha vissuto veramente la storia e la leggenda molto da vicino. E la prima particolarità è quella che stiamo parlando di un chitarrista che suona il basso. Sì, difatti Noel si presentò, l'avrei detto sicuramente, sì, all'audizione come chitarrista, però esatto. Chitarrista, quando c'è uno come Jimi Hendrix che vuole fare un trio, il chitarrista è lui. Questo credo che sia stato buono, perché? Perché essendo lui un chitarrista, certo, poteva fare da chitarra d'accompagnamento con il basso a un chitarrista che era totalmente libero da ogni, certo, regola. Certo. Quindi questo credo sia stato, ma anche, scusa, il batterista Mitch Mitchell aveva un modo di suonare molto particolare, certo, tant'è vero che Jimi Hendrix a Dignale dispiacque molto di dover abbandonare il trio degli Experience, sì, perché ebbe delle pressioni da parte delle Pantere Nere che dicevano che era immorale che lui suonasse con due bianchi. Esatto, senza dare conto che lui era il capo dei due bianchi, quindi quello era il trionfo del nero sul bianco, in teoria, hai capito? Allora lui prese Buddy Miles, che era un batterista strepitoso con i quali fecero la band, certo, del Gypsy. Tra l'altro c'è chi dice che il band disco del live delle band del Gypsy erano tra i migliori, e prese Billy Cox, che era un suo amico, anche perché il bassista era abbastanza ininfluente. Però devo dirti che il basso di Noel Redding era fantastico. Poi io ho parlato anche con Pamela De Bar, la regina del, sì, gruppo, che è stata per anni la una delle nostre preferite di sempre. Che è stata per anni anche insieme a Noel Redding, sì, e lei mi ha detto che era molto dolce come persona. E io le ho anche chiesto, ma ti sei stupita che sia morto presto? Dice, no, io mi sono stupita che sia vissuto così tanto, perché dice, vedi, questi artisti, tra l'altro anche Keith Moon, con cui lei è stata, sì, eccetera, facevano una vita talmente veloce che per loro 50 anni era come per altri 120 anni, certo, di vita vissuta. Sì, sì. Sì, senti, ma e poi in questi casi non ti riprendi più, cioè nella vita sei stato, come dire, toccato da questo fulmine, suonare con Jimi Hendrix, dopo che vita fai? Cioè, dopo che hai suonato, ma con Jimi Hendrix, dal 70 al 2003, quegli altri 33 anni. Ma no, ma lui dopo io comprai il primo disco dei Fat Mattress, che era il gruppo che lui fece, ma perché era, sì, il bassista di The, certo, Experience, ma non era poi granché. Ma sai, io credo che accanto l'unico che sia sopravvissuto bene suonando accanto a Jimi Hendrix è stato il chitarrista Randy California. Sì. Randy California suonò con Hendrix quando aveva 16 anni al Café Wa di New York per 6 mesi, nel gruppo di Jimi Hendrix, era il chitarrista accanto, sì, accanto a Hendrix. Poi fondò gli Spirit, ed è, esatto, quello che adesso è nella controversia di Taurus. Con Jimmy Page, certo. Con Jimmy Page, eccetera. Però lui è l'unico che è uscito bene da questa, da aver appreso da Hendrix, perché quando tu vedi Hendrix, dico che poi non deve essere stata una vita fantastica, gli altri 33 anni dopo essere stato così in alto e così al centro del mondo. Ma sì, ma rispetto del mondo, però ti rendi conto che non sei minimamente protagonista, nessuno ti guarda. Tu vai sul palco, puoi fare gli arpeggi di basso, puoi fare dei contraccolpi, cioè puoi far di tutto. Contrappunti, puoi fare qualsiasi cosa, certo, tutti però. Tutti guardano Jimmy, hai capito? Cioè, non c'è niente da fare. Quando Hendrix arrivò a Londra, che c'è Standard, iniziò a fargli fare dei concerti in un piccolo club, c'era pochissima gente, ma la pochissima gente che era a vederlo erano Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richard, John Lennon, cioè tutti, Paul McCartney, cioè tutti erano lì, cioè lui aveva la platea con tutte le rockstar che andavano a vedere questo fenomeno che non si era mai visto. Quindi certo, immaginati Noel Redding che voleva fare lui il chitarrista, la frustrazione di tutta la vita di vedere che gli altri guardano un vero chitarrista, non lui. Certo. Senti, prima di salutarti, volevo chiudere con un altro aspetto che si ripete sempre tutte le volte che se ne va un grandissimo e che ha toccato profondamente Noel Redding, cioè le battaglie legali che sopravvengono nel momento in cui la star scompare, e l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, ahimè anche in Italia. Mi sfioro l'argomento Lucio Dalla, per esempio, ma comunque quando se ne va un grande arriva subito una confusione legale. Ma è molto semplice, perché un grande non si preoccupa dei soldi e quindi lascia dei casini, quindi certo, lascia tante cose non chiare. Siccome chi sta attorno si preoccupa solo dei soldi, è chiaro che dopo ci sono le battaglie. Cioè, io non ho mai visto un artista che non sia stato derubato di soldi. Sei stato derubato anche tu? Allora sei un artista. Con nomi e cognomi che ti faccio quando andiamo a cena. Quindi, capito, vuol dire che io credo che nelle scelte dell'artista quanto prende non sia mai in testa. Se in testa è facendo questo guadagno questo, ed è la prima cosa di cui ti preoccupi, non sei un artista. No, anche quindi lì c'è anche un sacco di nomi invece di persone, esatto. Anche quelli te li faccio a cena. Ok, bello che tu ti occupi di queste cose, fai un gran bel programma. Grazie Red. Ciao, ciao. A prestissimo, ciao. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, oppure come Noel Redding, che hanno volato altissime per 3-4 anni e poi, ahimè, hanno dovuto planare anche in maniera dolorosa. E poi ci sono storie di chi ha avuto cadute e risalite, come ognuno di noi farà e può fare nella vita. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete che io punti il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it oppure al sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei Facebook, Twitter e in quelli del Falco e Gabbiano. Insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì.